parecchia propagazione, parecchia propagazione. No, però anche sono salito in alto un po'. Con questa radiolina, non vedere, ma adesso non ho paura, adesso ho comuto un'antenna. Faccio giretto di 10 metri a vedere se sta buona la propagazione. Non c'è niente. Ora, a te, a papà. Oh yeah. C'è il piccolo così con l'eco, c'è il piccolo di 200 notte, fammi questo maracchino. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Con l'eco, ma no, ma questo il microfono è normale, usa l'eco, questo è Galaxy, lo 98X, quello che ti ho letto. Questo microfono è normale, sto usando il microfono suo originale, ma c'ha il picco di modulazione al strumento, 200 watt, speriamo che copia l'alimenta noi. È forte, come ecco, è fortissima, Ma no, vabbè, questa... Ma neanche io ci modulo, no, non mi interessa. Adesso mi ho commutato e... Ho sentito un po' di propagazione, sono salito a 27.465, ma è molto bassa. È intermedia, è nei canali bassi, c'è molta propagazione nei canali bassi, capito? E quindi per quello l'ho attaccata ad avere. Adesso c'è una ricezione micidiale, veramente molto molto interessante, vabbè. Pazienza! Ascolta, e a Franco sistemato tutto gli hai? Sei riuscito a mettere a posto l'antenna o no? Bisogna tararla, gli ha dato la mancia, va a 5, bisogna tararli perché ha un po' di stazionarie, diciamo, su 5, invece più sale e meno ne ha, quindi bisogna allungarla, perché ci mancava il pezzettino della quella pallina che c'è sopra, per capirci, si era rotta e niente, e sicuramente, insomma, c'è qualcosa che bisogna fare, bisogna allungarla un altro pezzettino, perché lo filo di sopra si era rotto. Quindi, insomma, bisogna mettere un altro tubicino dentro e fargli alzare la tura, ma la faremo, gli ho spiegato comunque come fare, solo questi giorni era impegnato. Non so se abbia avuto modo di farlo lui, questi, c'è un lunedì o martedì, vabbè dai, dico, in settimana risolviamo il problema, una sera ci vado e gli do una mano. Dai, mettigliela a posto, no? Non c'è problema. Io ce l'ho una mantola, che è quella che avevo bucato con 922, e lo stilo di punta c'è tutta l'antenna, diciamo, devo saltare, vabbè, perché l'ho buttata nel poggiolo che c'è sopra, viene un po' male però. Se non lo trovi dimmelo, che salto col seghetto, la taglio a filo, capito, gliela regoli, perché tanto le fascette lì non muovono più oramai, vabbè. Ci provo, vai, qualcosa faccio, fammi sapere se ti manca questo stilo e così gliela metti a posto. A mancare manca perché si era spezzata, adesso non so quanto mi manca. Se ci riesci taglia l'ultimo pezzo, lo metti la fascetta o sotto la fascetta, capisco, 10 cm sotto la fascetta, se c'è lo stilo puoi fartelo prendere, tanto io a protocollo se viaggio ogni giorno, quindi non c'è problema. Se ti viene bene, se ti viene il numero di telefono ci sentiamo e nulla, non vedi tu. Vabbè dai, fammi organizzare, Vanni, perché ti ho detto che non va male, l'ho buttata proprio. C'è un poggiolo, però posso salire dalla finestra, dai. Col seghetto, la taglio sotto la fascetta, poi dico, ne ho rotto il turpetto, lo stiro intero così e a misura giusta. Però domani mi organizzo, se non piove, mi hai detto che piove, se non piove mi organizzo, salgo su e me lo porto qua, capito? E poi ci vediamo e te lo do. Così gliela sistemi a Franco questa antenna. Almeno le stazionali sono a posto. Bisognerebbe un microfono. Se me l'avesse detto prima, io avevo il Saventa, però gli ho fatto le connessioni a 8, volevo dare a Mauro per il 140 e vuole provare quello, capito? Se no gli avrei dato quello lì a usare. Che baracchino c'ha lì con l'attacco a 4? C'è un connex, adesso non mi ricordo, c'è anche le bande laterali, c'è anche i canali, no, va bene comunque. No, quello che è importante, poi per il microfono non è un problema, quello che è importante è che non bruci, capito? Perché le stazioni è un po'. A me quello che interessa, insomma, che si risolva così. C'è un attore, non ci sono problemi, è fatto all'estrada, la tagli più sotto come si porta qui, a partire dalla faccetta di oggi penso io, non ho problemi. Si apre, si toglie tutto il pezzo lì sopra, l'ultimo pezzo là, dico, è che così, insomma, lo mettiamo in carreggiata, però Franco, magari alla fine mi brucia anche la radio, è cambio danni. No, non credo comunque, vabbè, anche che fa passaggi corti, allora non credo la bruci, però già te lo do io, tanto ce l'ho. Trovo io, salgo e trovo la finestra, una scalettina e te lo taglio e non ci saranno problemi, ti do la misura giusta senza poter aggiungere niente, dai, lo inneschi, le metti la fascettina nuova e mi pare una pluga puccetto, no, me la metto, vabbè, comunque quello è un problema. Va bene, oggi vendi, controllando la situation. Sì, adesso sto facendo delle cose, ma grazie, ci andiamo a mangiare. Sì, controllando il genere, sempre cercare di fare qualcosa di interessante. Io cosa vuoi fare? No. A fare? No, mi sa che ho controllato un area di 144, ma ho finito, non mi so. Cosa? Non essere nata, ma adesso non è vero, l'ho presa male, no. Non sono seduto, non sono 50 anni, non ci sono anni, questi giorni l'ho preparato, così, dovevo preparare, l'estate 144, ce n'è. Io voglio che ce n'è, alla grande, mi hai dato un'idea, voglio provare questa radio, visto che ci ha fatto a go-go, a dare l'input su quello dei 10 metri, dai. Minimo ne dati 400-500. Ah, che c'è un picco di modulazione, ho paura che mi crepi qualche valvola, micidiale, con l'eco è micidiale, cioè c'è un picco di modulazione, proprio picchia dove c'è la scala 200, picchia proprio lì, dello smitter suo, immagina, dico lo smitter esterno, vabbè. Va bene, dai, Vanni, ci sentiamo dopo allora, che cambio radio, l'ho accesa giusto per farla scaldare un attimino, visto c'è la propagazione, e vamos alla playa. A dopo! capisco che bella radiolina, bella radiolina, complimenti. Ma che tu guarda questo tedesco, cos'è? Tedesco è. assurdi, cosa c'era di attività, cosa c'era di tutto. Adesso c'è una fame. Una fame che si taglia affetta, produttore, veramente. E vedi che il disuso proprio, cioè non c'è chiamato più niente. Oh, c'è una fame lì a produttore, perché guarda, impressionante. C'è la, allora c'è la ferreria, c'è la, tutto. Facciamo le pratiche, facciamo questo, facciamo quest'altro. Vabbè, se non lo faccio con il gente, però se ne va per lavoro. E qui dai che mi hanno chiamato qua a mangiare. Se sentiamo noi, vai. Ma quale cosmetro? Sempre qua sono io. Un po' giro pagando per il canale, c'è tutto acceso, 5, 10, 12, 45. È tutto acceso qua, dai. Ma ci sentiamo dopo, Anto. Passo e chiudo, anch'io vado a mangiare, sei pronto. E là, c'è bello segnale, Valencia, e poi vado. Ho preso il segnale che è tanto con pugno, sì, 9:10 pieno qua, pieno. Ecco, là che mi chiamo. E a dopo, ciao. Che fischi, capito? cappa di Ruggero. Guarda il segnale adesso, un attimino si è migliorato un pochettino. Sì, 35 abbondante. E perché c'è una monopolina carina qua, gliela giri e fa qualcosina, guarda un po'. Hola, hola. Scusa, la prende questa modificatura, perché io da 4 batte, e se non li attacco con un 131 non riesci a mancare Ruggio. Aspetta, è aumentato da 30 quasi a 40, 36, 37 modulati. E dovrebbe andare bene allora adesso, dai. Aspetta un attimino. Ora, ora, ora. Ah, mi stai prendendo in giro, che sei già andata la bestiolina. La prima potenza. No, niente, davvero, sono 4 watt e marci pure. 4 watt, proprio 4 watt, 4 watt. 4 watt, però c'è una levetta che ti fa andare un attimino oltre, guarda un po'. La prima passa già 9.30 e adesso sei quasi 9.40, quindi non è una levettina da niente, caspita. Tu arrivi lo stesso segnale, non pensare. Ma io sto usando adesso 140 con 30, 40, 35 di portante e 60 modulati. Cappa di Ruggero, boh, io non so quanto sta uscendo, ma dovrebbe uscire abbastanza bene, devo dire la verità. Poi si usa la bezzolina, già lo senti, no? Che faceva quel rumore, ma ascolta, quello lì non ha la possibilità di portartelo di là, troppo ingombrante. Ma scusami un attimino, che c'è una bassa. Sì. Ci sei? Yes. Cosa ti ha cucinato oggi, Anna? Allora, a pranzo ho mangiato una bella pasta al forno. Stanotte un paio di fritti di cavallo, una bella insalatina di polpettina dei granchi e surimi con sera, no, cipolla, pomodoro e la catalana. Ci sono i funghetti al forno e Anna con Ilaria, quindi tutta quella roba per me naturalmente, Anna e Ilaria c'hanno la pizza. Non basta. Oh, vedi, si vede che ti ha fatto risalire l'umore, dai, già va bene così, già va bene così, brava donna, brava donna. Se non mangi almeno quello, ci prendiamo le tante cose, ma almeno di mangiare. No, ma stamattina non mi ha chiamato più un pochino, ma io la verità, appunto mi conosce, te ne sei colto dalla voce. Poi tante altre cose, mi dispiace, però sono così e devono rimanere così. Quindi niente, però mi riprendo subito, lo sai, no? Sono bruciduccio, come mi dici tu, quindi. Si abbia gli occhi. Ho detto un po', ma quello lì non te lo puoi portare in via della stronte, è troppo ingombrante. No, ma se lo conosci bene occupa quasi mezzo metro quadro, capito? No, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Ma poi lì devo sostituire l'antenna, perché c'ho quella specie di rinco che non serve a niente. Lì mi deve appena un'antenna come il pomodoro che c'è davanti. Si piazza bene, intanto ho visto che è la casa abbastanza bene a diventare le cosettine che servono. Quello che hai fatto di Rotefelle, quello che hai preparato per poi fare quello spostamento è eccezionale, è un'idea fantastica. Io non ho quel problema perché ci arrivo tranquillamente, però avendo quel problema lì, caspita, avrei risolto immediatamente con quel coso che hai fatto tu, quel progettino lì. No, io già lo so, io ne ho la vista, ne ho due Marshall Duck che prende mezza scrivania. Non già ne ho due sopra, uno sopra l'altro, adesso in settimana devo andare per forza perché devo promesso a Gio Maria a ritirarmi l'altro Sommercan, se no la vergogna. È un mese che lì, domani, non sono mai passato a ritirarlo, e quello mio non lo devo ritirare. Non è urgentissimo perché non è un problema, però è il mio, quindi devo andare a tutti due la metà ai piedi. Lo so, sono ben ingombranti, belli da tenere, a bere, però sono ingombranti. Ascolta, se noi le mettiamo un microfono tipo Saletta, cosa dici? Poi su questo qua andrebbe benissimo, assolutamente. Cosa c'è? La 4 c'è. Che sì, sì, sì, dovrebbe essere l'attacco a 4, adesso aspetta. Conferma 4. Allora, passa con le domande che ti voglio saletta. Anche se non va bene di connessione, le inverti il filo. E lo usi con saletta quello lì. Ascolta, dai, organizziamo una di queste sere per un'uscita, ma anche una mattina, un sabato mattina o una domenica. E un po' di gente, vediamo un attimino di mangiarci una pizza. Amici e nemici, io sono pronto anche ad accettare, quantomeno di dividere il desco con i nemici, non c'è problema. Tanto, lo sai che ti voglio bene, noi ci attacchiamo come cani, ma dopo 5 minuti non ci abbiamo niente. Però io non voglio ricadere nel tranello, mi dispiace, ne parliamo di persona, tu vieni qua a provarmi, lo sai, quindi ti prendi quel microfono, tanto dentro l'armadio io non lo uso, puoi tranquillamente attaccarlo lì e così me lo fai anche sentire e ci facciamo due chiacchiere, perché sto benissimo così anche con quelle poche persone veramente che mi danno quelle soddisfazioni necessarie per stare bene. Gli altri non ci riesco più, tanto non ci riesco più, quindi lo sai come la penso, sono come te, ecco perché ci attacchiamo e andiamo d'accordo, però non ci riesco più, tanto mi hanno fatto troppe, e l'ultima è proprio quella che ha fatto traboccare il vaso, perché è completamente, guarda, una tronfata più grande che ti racconto. E no, ma io ti ripeto, al pari della frequenza, come... Cioè non ci sono, è esclusivamente perché rispetto anche il modo di vedere degli altri, nel senso che c'è qualcuno, queste persone che con me non ingranano, stanno bene, ma ci mancherebbe, non è quello il problema, non mi precludo la possibilità di stare con gli amici perché ci sono queste persone, quindi ben vengano, ben ci siano, è importante che con me non scambino neanche un'occhiata, non c'è problema, davvero. Dopodiché va bene così, è giusto per contarci, per vedere quanti siamo e ciccia. Tanto, parliamone di persona, io lo sai, con te, con Fabrizio, possiamo unirci anche con le famiglie come abbiamo già fatto, perlomeno io e tu, passare una serata diversa, andare a mangiarci una pizza, chiacchierare, parlare anche del radio, ma se non se ne parla è meglio, però abbiamo un altro tipo di sistema, capito? Quelle poche persone che io in radio scambio due chiacchiere, due idee, l'ho promesso, l'ho fatto, ci ho messo una pietra sopra per quanto riguarda una persona che mi è sempre stata a cuore, e quindi ci ho messo la pietra sopra e va bene così, ma per altri lascio a te, per altri non voglio neanche che si avvicino, perché se si avvicinano mi viene già gli attacchi epilettici, so a pensarci, capite? Quindi meglio non si avvicinano neanche, perché continuano a rompere le palle, continuano a dire cazzate, continuano a farmi a pezzi, senza neanche conoscermi, quindi ognuno vorrà per la sua strada, che non ho bisogno di condividere niente con quelle persone. Va bene, dai. Ok, mi hanno chiamato un attimino per caricare batterie, se ci sei ci sentiamo dopo, dai. D'accordo, dai, comunque ne parliamo, approfondiamo con Fabri e poi settimana organizziamo, ci sentiamo dopo, ciao. Passa a prendere quel microfono, quando vuoi. A parole, buona carica, ci sentiamo dopo, ciao ciao. Ciao anche. Ciao, mangiare, tua mamma, ci sentiamo dopo. ha deciso un attimo. Che è avanti? Per pagare di comare. Non è un giocatore, non è un giocatore. Certo, televisione, dove ce le fa? A rincoglionirmi il che fa. Siamo in pochi così, il timone fa un po' di ciabatte. insieme a farlo. Tipicamente li avevo messo nel piantone. L'avevo fatto mettere un po' al tavolo. Non tutti capiscono al volo, non lo vedi. sa puzza di culo. Che vuoi fare? No, non me ne sono interessato né niente. Sto con loro che una volta c'è un micio così che davano a fare i denti, non mi ha messo via. E vera che c'è un capo, e che vera che fa via la cresta in capo che faria gli altri. Questa volta da approccio, mamma mia, delle dorse. Sono qua la volta da approccio, è tutto approccio. Dove c'è il figlio di Maggiulio? Si varia un raggio, si varia. Madonna, ragazzi. Ha attaccato la giurisola, ma che c'è la ministra? Oh, ma che c'è? Che vecchia ne è fuggirato, che vecchia ne è? Quella gente fa audience, capito? Nel senso che se lo metti con la gente non guarda il programma, perché sono personaggi, c'è per loro che fanno audience, capito? Fanno spettacolo. Ma l'audience quando vuoi, ma se tu in casa mi posso trovare tutto la gente nel cazzo, io non lo posso, guarda veramente. E vedi, stare lontanino le cose poco la parola, perché sono fatto così. Se chi ti dispone non è che a me piacciono tanto. E neanche a me piacciono molto comunque. È sempre gente dello spettacolo che me l'ho accettata per quello che è. Peccato. Ma anche più difettosi a me non è che stanno molto. Hai capito ora se voglio dire, no, non mandi a tanto, non mando tanto a te, io. Io perlomeno sono un uomo, a me piace la festa, non mi può piacere un altro uomo, a me fa piacere, è così che deve essere, non ho mai che mi possa pensare il futuro di Francia, mi hanno per una bella festa, a me da non mi dà fastidio, io sono abituato diversamente. Io per me ogni cosa deve essere al suo posto. L'uomo e la donna è la donna. Quindi chi si è cazzo che fate la controversa, mamma mia. No, non va bene, dai. E più sta andando, e più sta peggiorando la situazione. Io non riesco a capire perché ce ne siamo così tanti. Pappagalle. Però ti ripeto, se non ci fosse quella gente, magari non andava bene, capito? Non facevano l'ascolto che fanno. No, vabbè, io sto parlando, adesso non sto parlando dell'onde, io sto parlando della normalità. Io sto vedendo sempre più gente che è così, che fa veramente pena che c'è venito, anche perché si prende. A volte non c'è niente, ma con televisione lo sono arrivato. Secondo me non esagerazione, pure. Pazienza, va. Io rimango sempre nella mia strada, gli tocco una cosa, arrivo alla gnocca. Ci sono quelli però che fanno uno e l'altro. Sappia, avanti, Sandro. Ciao caro, buonasera. Mi capito che anche quando fischi io non ho problemi. Sì, ormai conosci già il respiro. Davvero, signor Bri. Già lo credo. Tanto lo senti a Sandro? Aspetta che ho un metro, non lo so, dov'è? cosa fa quella signora? No, mi si ci dà la risa, è marita perché sta vedendo, no, è tutto così. E lui dice, guarda, ma la faccia vedere, però, ma la sintonizzi così, quando sto parlando al baracchino guardo anche la televisione, e da mancante, hai mai preso il bombolino? Certo, compreso io, già, mi fa solamente ridere, fa, cioè, no, non ci sono parole, guarda, fa ridere, fa. Ma ridere ai folli anche, che quando va a raccontare a qualcuno che lo sa stesso, dice ma quasi Marco o sta di fatto Marco? Che è te che si mette lui e ti. Vabbè, sono persone ignoranti, cosa le vuoi rispondere? Ti metti a ridere e giri le spalle e basta. Una persona ignorante cosa vuoi fare? Se ignorante basta, è nata così, no? Vai là, apri il doppio e ti metti l'attestamento. Non glielo avrei detto, però la sintonizza, non mi la frequenta, io mi sintonizzo quando parlo, guardo anche la televisione, fisce, fisce, vedo. Vedo poca differenza. Siamo tutto da un'altra parte noi. 27 mega, ti finisco. Andare via ai chili, non mi vuole il traffico. Oh Claudio, tu? Ma se consideri che io ho la mantova, l'antenna, ce l'ho proprio sopra l'antenna centralizzata nel palazzo, e sul mio televisore non fa una grinza, nulla, ma mi spieghi perché? E quella è un imbecille, quella te l'ho detto tanto per parlare, capito? Tanto per parlare, dovrebbe dimostrare con i fatti, non le puoi dire che la tua frequenza è quella della televisione, sta dicendo una grandissima stronzata. No, ma infatti glielo ho detto, trovati, io sono in regola. Se vuole farsi un controllo, le do il numero di telefono, le chiama e le dice che c'ha dei disturbi in regola, glielo controllano. Infatti, te ne ha tutti nulla, devi continuare a fare quello che fai. Cerina tutti, potrebbe essere qualche imbecille che non sa cosa dice, è una bugata di cagagata. Dite una cosa, mandami il controllo, gli avevo detto, mandamelo però. Ah, ma con cazzo ti fai sentire un pochettino di tappore, va, quando mandalo il controllo, avevo detto, mandamelo però, mi te lo dico io dove devi andare, avevo detto. Da poi ho parato, no, sono cazzamare, capisciano bene, già lo sa. Aspetta, sai, stavo parlando bombo, cosa hai detto? No, vado io. Perché Sandro non ti sente, vi siete incrociati. Che cazzo, le stavo dicendo, dici a Sandro, di mandarmi controllo, che non c'è problema. Poi cazzo che andrà la ciappa di andare a cucinare, andare a andare in sopra, la ciappa ha pubblicato l'antenna, a rubalato, figliani e fatene un cassettone che non più di più, a vedere roba di contrasmissione che invece. Non ne vale neanche la pena rispondere, non ho capito. Non ne vale la pena neanche rispondere, lasci parlare e basta. Quando uno è tranquillo e sereno, è già tutto. Però arrivato a questo punto mi si fare anche un pochettino male a questa gente. Per infatti già ho detto mica, ha fatto un rumorcino, io laggiù ha pigliato bene, non mi rompete le palle, perché dico che mi rompa le palle perché tanto io ho così pigliato con i pigliatori. L'antenna là me li mando io sul segno, da poi che anche devi pagare paga, no. Te lo posso vedere io, vedi. Infatti, a me quel problema non fa niente, assolutamente niente, manco una telecamera me lo bassa. Non guarda, non faccio, non controllo, non c'è una fitta a me. Non mi dico andare in viaggio, no? Non c'è una fitta. Non mi interessa niente, bim bum bam, bim bum bam, dischi, oh va. Beh, a me in tempo. No, io sto parlando di media, ho detto non rompete le palle. E che era una bambina che me la rompete le palle. Io ho detto che l'ho minacciato, guarda, non me lo rompete le palle, perché cazzo questa volta sono manco sul serio. La posso lo posso vedere io, per i carichi con la ragione che ha fatto tutto. Non so. Sono molta gente, no? Non lo capisce. Bisogna fare la brava. Vabbè. Aspetta, dammi un secondo, tu che mi vado a prendermi. Un po' c'è l'acqua, 17. Ma non è già che non posso parlare con Sandro. Che bello, ciao. Attenzione sul 10, Brecco. Attenzione, Brecco. Sì, buonasera a tutti, dai, doppio rumore. Okay. Sì, in effetti sono delle manopole trasparenti in plastica, non è altro, perché sono belle, vedete, se lo vediamo. No, gli ho adattato il Sadeltra. Come quello che c'è io, un bravo push. E adesso mi dovrei tanto mio lavoro, mi faccio riprendere, so, intanto Mauro no. Non vuole che usa quello suo. Ora, solo Antonio ce lo usa Antonio. Se passerà domani se lo prenderò con uno, lui ha dentro la scatola, l'ho usato 3-4 volte. L'avevo preso da Luigi, di nuovo con uno. C'entra la batteria e anche carica. Non usa Antonio con quella radio che c'ha. Vediamo se riesce a uscire un po' meglio. E quel, come si dice, quel 2000 che non, per la sua radio evidentemente non va bene. Ok, aspetta un attimino, prova. No, questa è riscaldo. Questa è riscaldo. Ok, vedi un po' se va bene così, se si sente il bip. Mamma grande. Ma quello lì è elaborato anche di slatti, di tutto. No, questo è con le madre in casa l'ha fatto. È il bip. No, il bip è tramite il mic da base. Ah, ho capito. Comunque lì, io sai che microfono ci fa bene, il DM1000. Se ci metti il DM1000 esce una bomba. Il cavettino, l'antenna spiraletta, fosse 18,50 compra subito. Cosa fai in chili che non te ne ha manco ordinato? Lo vedrai che non ne ha neanche ordinato. No, infatti non conviene mai. Se ce l'hanno sul momento gliela prendi, perché ti fa più comodo averla subito, ma se non viene non conviene ordinare. Ora mi ho dato la parola a lui e quindi se non ce l'ha fatta entro questo primi, perché il fine mese è finito, adesso vado domani, che lunedì, e vediamo un po' se la ordinate bene, se no gli dico di no, che io non la voglio più. A un certo punto non si può stare a farsi prendere in giro così. Ma infatti. Sandro, ma tu non ce l'avevi l'antenna per il ricevitore di quelle piccoline VU? Ti ricordi? Che antenna era? Antenna piccolina VU. Ci sono venuto in campagna, che abbiamo montato la mantova la prima volta in campagna. C'avevi un'antenna attaccata al coso lì, al mobiletto, quando c'era il 950, eccetera, eccetera. Quella non era un'antenna VU, ce l'avevi attaccata al ricevitore. Ah, tu stai parlando quella da macchina. Sì, da macchina, e allora? Sai della giubboscia? Come riceve questa quarantena? Benissimo. E quella che stai cercando tu, già. Quando ce la trovi, vai a Gianni. Tanto non te ne ha ordinato, per me non te ne ha ordinato. Ma se tante volte me l'ha fatto a me, no, non ne ha mai ordinato. Una volta sono andato con un rosmetro. Scopo lui c'è solo per taggi che trovo, lo compro, intanto per un baracchino, giusto per misurare, senza metterlo in stazione, tu mi serviva, faccio dentro l'armadio. Ma lo sai quanto è passato? Alla fine mi ero anche dimenticato, un giorno da lavoro e mi ha chiamato Antonello. Ma chi lo sa lui? Perché c'è il numero suo, c'è scritto Antonello Fusaro, no? E chi lo sa lui? Marco, non lo vedi? A lavoro, faccio stasera che è arrivato il rosmetro. Quale rosmetro? Ma tu ti ne ha io. Ma ci ritieni, quel rosmetro con la CB, la ZG, la capito 101. Ma ci sta là arrivato. Arrivo, a due mesi. Certo, va, faccio te lo ritiro perché non voglio fare tutte su. La prossima volta non te lo ritiro più perché non mi serve. Non mi serve, infatti, ti giuro, va, perché era Massimiliano. L'ho usato pochissime volte, poi è venuto una volta Massimiliano qua, ma poi mi siete lo smettere lì per misurare il metro 30, te per il tiro, beh, fai dimmi, troppo di tiro, non me lo tenuto da io. Invece avevo ordinato la KP1000, mi ha detto la prossima settimana arrivo, e ho già fatto l'ordine, tutto quanto, mi lo inserisco e così lo spedisco l'ordine. Sono occupato di una ghiera, sono occupato di un'altra, insomma non è mai arrivato, per la fine mi ha detto che non ne facevano più. Beh, l'ho ordinato da tecnocomunicatori, ma la matto sbagliato la prima volta, ma la seconda volta poi me l'ha mandato giusto, dico la verità. Allora, il lineare che ci ha pronunciato quello lì è quello che ci avevo io, che come uno stronzo, posso dire, l'ho bruciato il finale, perché quando mi ha fatto scritto io lo provo, la papà ha comprato io lo provo, solo che non c'erano baracchini perché non c'erano posto eccetera, l'ho attaccato al 440, ma ho messo proprio siccome la 5-10 watt al bacio al 440, al 140, ho messo 5-10 watt, proprio picco, fischiavo, a rosmetro, è tarato bene, 10 watt, 10 watt. Allora, attacco 10 watt, mi tiene, infatti, senza ricordarmi però che il 140 non è come il 440, dopo che lo tieni un po', che scalda, ma 10 watt ce ne va magari a 15-20, capito? Quello va bene tranquillamente, salivo a 300-350 alla grande. Ma io ho cominciato a indicare il bruciato e vedo lo strumento calare. Andrò a controllare lo rosmetro, 10 watt, solo per filare qua sul piano, l'ho bruciato, l'ho qua, ti giuro, mi è sceso un cratto, l'avevo appena comprato. L'ho preso e l'ho messo a parte, poi è capitato un giorno Luigi, ma guarda a me, se stavo qui, dammi, l'ho fatto il cambio lì, ma anche lì, 2 mesi. E volete che non lo facevano più, che facevano il 507, che facevano un altro modello. Tu non si dite, guarda che te l'ho detto oggi, se è l'ultimo nato il 507, ma vedete. 550. E mi pare che ha detto una cosa del genere, cazzo, l'arrivo segnato finalmente. Non fanno, ordinari non fanno. Io sono sempre contrario a ordinarli così. Invece se lo ordinai internet lo paghi meno, paghi in 3 giorni e ti arrivo a casa e ce l'hai. Ma già davvero, se tu vai su internet, l'ho visto proprio l'altro giorno, infatti ti ho pensato come sono piccato lì. C'era nuova, compra subito 18,50 euro, sicuramente lui te la fa pagare molto di più. Tanto Claudio, a me mi serve solo lo stilo praticamente, perché io ho già la base magnetica e ho intenzione di attaccarlo la sorella farfalla per quello, perché ho già la base magnetica con l'attacco a farfalla. Non faccio altro che attaccare lo stilo a farfalla sulla base magnetica e a posto. Oh Gianni. Sì, ma quella che sto dicendo Claudio, quella che ho io, è giusto da mettere nel buco? Come nel buco della macchina? No, che attacco c'ha? No, non lo puoi smontare. Tutta completa, cliccare sul buco della macchina, solo così è quella lì. No. A me interessa con l'attacco a farfalla, sa, perché ho già la base magnetica con l'attacco a farfalla. Metto solo lo stilo e la base, l'altra parte me la conservo al limite, può sempre servire. Però io ho già tutto l'attacco fatto, col piede, tutto grande, basta che la metta sulla ringhiera per ascoltare e via. Oh già. Controlla quando hai 2 minuti, pure quando hai 2 minuti che ti viene bene, controlla se c'è la Ford della Banane Malittore parcheggiata nel piazzale. Ok, puoi chiamare anche io, e me la faccio dare dalla moglie con la penna. Solo stacco la farfallina, me ne prendo solo lo stilo. Dimmi se c'è la macchina, perché io non l'ho più vista con la macchina, non so se l'hanno data o se la sta usando il figlio. Fammi sapere se c'è la macchina, se ce l'hanno loro quella macchina, che c'è l'antenna attaccata. Poi glielo dico io a Carla e me la faccio fare con l'antenna. No, la sta usando il figlio, la sta usando Sandro. No, ma non gliene chiedere, tanto costa 2 lire, dai, non c'è bisogno. Potrei farla anche io, ma io lì l'ho sentita che ha detto il giorno che sono andato a vedere l'attore, ha detto adesso chiudo con la stanza e con la roba rimane lì tale quale come il giorno che è morto. Oh Gianni. Allora io ho uno stilo proprio per quello che serve a te, uno stilo con l'ingresso PL maschio o già era attaccato. Ah, PL maschio stai dicendo? Ma io c'ho quell'attacco, hai capito quale c'ho? C'ho quell'attacco a farfalla già, sopra la magnetica, mi serve una con l'attacco a farfalla, non faccio altro che staccare lo stile, attaccarlo lì, capito? Ma me la compro, lo sa, non ci mette problemi. Me la prendo, se non è arrivata la fusa, me la corro da internet per fare. Ok, dai. Oh, signori, io vi saluto. Devo organizzare per domani, dai, alle prossime. Ciao. Non dai mordere, anche se ti stanno rompendo le scatole, ho sentito che ti stanno dicendo cosa, perché stai disturbando il televisore. Probabilmente è sul televisore che o è l'antenna che hanno loro, se è un'antenna a parte, magari è arrugginita e fa quel lavoro lì come faceva quella del mio palazzo. Vabbè, comunque io sono in linea, quindi tutto lì. Vabbè, ciao, dai, alle prossime. Ciao. Avanti Claudio. Ciao. chiaro, Sandro, è chiaro. Sì, da essere grattato, ti dici. Da essere grattato, ti dici, per carità. Ma la gente non sa cosa deve venire, dice solo strozzate. Più di quello che ho sopportato io, questa gentaglia, bigliettini, articolo sul giornale, di tutto e di più. Ma Sandro, non ha niente da che preoccuparsi, capito? Che si controllino le cose loro, invece non fare palle. Nella massa c'è sempre quello che non lascia vivere, che si vuole attaccare, basta che vedano un'antenna, che molta gente si affaccia, ti vede piazzando l'antenna, già da lì sta già disturbando, ma che non è manco attaccato. Infatti la Sandra l'abituno, la signora, lo sa che le frequenze della CD sono uguali a quelle del televisore. Se poi procava, non so, mai stati uguali, ma proprio adesso non dovrebbero disturbare niente. Solo che naturalmente se si attacca roba grossa, capisci a me, allora può darsi. Yeah. prego molto, tra l'altro devo adattarti della roba mia, torri, fino a me non mi interessa, non ho futuro. Capito? Non ci voglio speculare su queste cose, tu la devo segnare. Tu la devo segnare, tu la segnare lui. E quindi, capito? Posso anche chiedere, come va quella antenna che c'è in macchina che mi serve? La smonta subito. Finta che la capotta mi può pesare, non ce n'è problema. Ma tu non lo sai cosa mi è successo quando sono andato a vedere l'attore? Hanno messo un altro telefono. Non mi suona mai. Da dire che suona il telefono, mi sono dimenticato di spenderlo. Sì, vabbè, non è in chiesa. Buono, non è in chiesa, lo spegno, però quando capita così che cosa lo lascio acceso, mi capita troppo con me, anche quando vado al medico così, in ospedale lo spengo sempre, però è acceso, mi ha scordato paziente, già non hai fatto niente di male, tanto poi non ha sentito me. Beh, purtroppo il figlio era meravigliato, dice che quando è tornato, dice che era mal dominato, il figlio è ritornato a casa la notte, lui era al computer e ha detto, vabbè, divertito di sì, sa. E dice, mi sono divertito così, ma e cosa sei, ancora al computer, e mi sto finendo, me ne sono andato subito a letto. Ma tranquillo, dice, variabo, tranquillo. Ci siamo sentiti, ci siamo visti, ci abbiamo preso il caffè due giorni prima. Infatti era ora di mezza mattinata, non diceva quello, il caffè non ne prendeva mai, prendeva sempre un bianchino, un campanino, una cosa del genere, tutto, il caffè davvero lui. Sì, chiamo, non sto bene, non mi sento bene, devo andare dal medico, ho fatto le analisi, non sto bene, non parlava lui. E con questo non sto bene, e tu se ne è andato, tutto, fatti controllare, la pressione, che sale, che scende, qui, là, e niente. Due giorni prima, a me quando mi ha chiamato Andrea, io sono andato via dal lavoro, se mi ha chiamato la mattina, ho chiamato subito l'ufficio, ho detto scusate, non ho ricevuto una telefonata per andare via, non c'è nessun problema. Siamo andato e non l'ho già morto. E ma dice che è andato prima a accompagnare la nipotina all'asilo, poi ha preso il cane e l'ha portato a passeggiare, poi è ritornato in casa. E ha detto, mi devo fare una doccia alla moglie. La moglie gli ha detto, cosa fai? La fai prima tu? Prima? No, falla tutto. Cazzo, dice che per la doccia ci stava poco, faceva in fretta, ci sentiva sempre questa qua scendere. E lui non usciva. Alla fine è andata, gli ha detto, ma finito, e non rispondeva, dice che è riuscita a sfondare, la porta era chiusa un po' male, era chiusa male, è riuscita ad aprirla e l'ha trovato riverso sulla vasca, non è chiuso come Dio l'ha fatto, così fa. Lo so, sì, lo so, il problema era toglierlo, povera, un bestione, ha lasciato il segno, mi ha lasciato un segno molto molto, è l'unica persona dove io praticamente ho vissuto lui, capito? Ci andava per l'ottobre, ci riprendeva e portava a Sassari quando ero da un baracchino, e anche la parte amatoriale, diciamo, è stato un suo input. Quindi siamo andati assieme, abbiamo fatto assieme, abbiamo fatto tutto assieme. Siamo andati a dare esami con l'argenta, l'esame della riga, Davide Cesci. Perché c'era quel delinquente di Walter con la Mercedes 5000, quindi dovevo via variare, si lanciava anche la macchina, mamma mia, io c'avevo un sangue al cervello per tutta ballerina. Walter ci passava. narrando, e poi rallentava, e poi via, via, su a passo, via un pesce, però non c'era niente nel 93, figurati. Che tempi, ma sarebbe cambio discorso. Comunque, fammelo sapere se ti serve uno più bene, dico a Sandro, non faccio male. No, adesso vediamo se riusciamo adesso, domani vado a Fusaro, vediamo un po' se arriva, perché sa già che me la deve mettere a parte come arriva. Se è arrivata, mi raccomando, se no, se non è arrivata di casco, cantone, mi dispiace, ma me la ordino da internet, perché a me è una cosa che mi serve, non è che avessi questa grossa fretta, ma arrivati a un certo punto, poi ti scucci, dai, non posso andare 50 volte, a parte che via a trovare un parcheggio, manco se lo paghi milioni lo trovo. Non mi ricordo, sono arrivato a quello, ma non è bello. facciano una banda molto larga, mi pare che facciano da 140 a 170 in due, poi da 430 a 470, che detto proprio risuonano così, mentre quella vicina invece fa 144, 148, vai, una cosa del genere, e poi in UHF fa 430, 440. Sempre, no? No, no, se torna a mi porto 50 euro, mi compareggio un pacco di birra e mi ritorno. Sì, poi ti veniva che cosa che ti piace. Sempre così, sì, c'è come quello che va al supermercato, cioè non prende il carrello, cioè devo prendere due cose, e poi alla fine ne arrivi con tutta la roba, la sempre di pulizia. Già, non ti dico i casini che ho fatto, guarda, guarda, perché non mi va, ma te lo accenno solo, io mi ricordo una volta che sono andato, con lire, poco più di 300.000 lire, ma giusto per vedere se c'era qualche UHF, capito, appena diventato la rimasto per 1+0 ancora, figurati. Quindi gli HF non li potevo neanche usare, perciò mi volevo comprare un 2-1 o un 1, insomma, giusto per iniziare a fare qualcosa che tu mi avevo già, perché ho vinto una birata. E vedevo Marco, Walter, Ceralino, eravamo una grefa, Danilo, guarda, chi c'era Andrea, uscì quanti eravamo. Un sacco di gente, trovavo un minimo una quindicina, Gianni, c'era il mitico Gianni Eldorado, anche lui appena diventato rimattore. E praticamente non si è trovato, allora comprava, prima scendeva la bava, tu avevo un 3x2, mi aveva anche io, se voglio comprare. Avevo trovato un 711 della Kenwood che è praticamente uguale al 140, però il monobanda VHF. Comprato quello, manco una sicina mi era rimasta. E gli dico, io guarda, non compri. All'uscita della fiera, vedo filiale della banca commerciale, la banca commerciale è scritto sardo, ma che scritto sardo c'è sempre quello. Dopo, mi date 10 minuti un attimino, volevo fare una telefonata, e diciamo qua non ti perdo, no, adesso abbiamo il VHF, no, perché in fiera ci portavamo sempre il VHF portatile con la licenza, la patente presso, perché c'è la scorraglia dentro, e quindi insomma, ecco in banca, c'era questo ragioniere, ha detto, scusi, vorrei parlare con il direttore, c'è un direttore, non so se lo diceva, sì, chi è, lo arriva di loro, sapere, abbiamo un problema, devo parlare per forza con lui perché devo fare un'operazione, va bene, riceve, trovarmi, deve perdonare, ma io ho un problema, sarà una fesseria per lei, però io ho un problema, sono qua in fiera, sono arrivato senza neanche una via, se vuole gentilmente chiamare la mia banca Sassari e mettermi a disposizione un milione. Oh, un milione malato, sono tornato a casa, ci avevo 5.000 lire. E che cosa tengo imparato? Dopo il 20. E tua moglie con Mattare lo picchiate? Lascia perdere, quello è venuto dopo, quella è la seconda fase, al momento dove è tratto conto è successo quello, prima no, ma non pensavo un milione, perché un milione è 300 euro, però Alfredo me l'ha dato lo stesso, un altro poi adesso per la ferrovia, poi serve Quagliarella, serve mia umiliazione per il Napoli, non venne la Juve c'è, povero Corriere, demoralizzatoci, e niente, me l'ha parlato, dopo poi già ci vediamo, capiamo, mandati, mi pare che un mese, ma non mi ha mai telefonato, la verità, e si fidava certamente, però devo tutti mandare anche qui, facendo camuffi. Di miglia, quando vedi una cosa che ti piace, ti preme forte, al punto di essere come la droga, che è droga. Quando una cosa piace. Io oggi mi ero scampata, cioè oggi, ieri, mi ero scampata così, mi stavo per comprare una macchina professionale, l'altro giorno stavo parlando con Antonio Grode, ho visto una Canon veramente bella con un bello zoom che faceva da grand'angolo sino a 300, cioè c'aveva tutti gli obiettivi praticamente, da grand'angolo sino a giù. stavo per prendermi, l'ho chiesto, ho fatto, c'avevo la carta, c'avevo lo sconto, stavo quasi per prendermela, poi ci ho ripensato tu, mi capite già che hai previsto guai. Già, le passioni ce le abbiamo purtroppo, una c'è quella fiera di Lire, proprio una delle prime fiere, la prima fiera che io sono andato, non ero mai rimosso andare a queste cose, per me è stata, tutto ciò non scendeva la guapa, guarda io mi invito perché non, perché per chi non è mai andato ad una fiera del reumatore di andarci, perché è una cosa pazzesca da vedere, è come un mercatino della frutta, invece la frutta tu vedi radio, ma radio barò, radio zero. Andateci perché è una cosa veramente bella da vedere, una tronzata, quando mandati mi pare come ho fatto a Milaia, andate e tornati con fuori. Un'ave senza macchine, poi la seconda volta siamo andati in macchina e si pagavano un po' di più, però veramente dal porto guarda andare alla fiera sono 10 minuti, noi la prima volta eravamo andati in traffico, quello che ha detto mi ricordo che lui ha detto bisogna fare. Ebbe lì, mica siamo in Sardegna qua, e poi la vittoria, io sono suo collega, come collega, anche lui del servizio, sì, allora non le fate il biglietto, ebbe lì, me lo poteva dire prima. Non l'ho fatto nulla, e tutto con la pigliata, la bella viera, lei dove lo mentira, fate amicizia subito. Secondo che uscite io ripasso la terza linea, non so dove se l'ha detto, lo fa vedere la puntore, per capire le linee. Allora non ci fermiamo qui e passi a te, ci va bene, ciao, e beh lì ci vediamo. E poi mi ha sentito un attore, una volta mi ricordo un particolare, questo qui ha suonato due volte il campanello. E lui era autista ancora. Cazzo di rufare la mano, giù. Se non esci fuori quello che ha suonato il campanello due volte, io non riparto. E uno ha detto, sono stato io, perché? Pure, non c'è per dire che tu vuoi avere sempre sullo sportello, una fata di bene, che dire che tu era cercato troppo, ma era impressionante. Io temevo un motore solo quando guidava, perché se non le davi precedenza a facevi qualche ti metteva presso, vai a me, ma io sono quello, faccio che non te lo so, sono imbecille, trovo dove lo faccio, culo, vai, si sa, io vado a vedere andando, guardando mai, torniamo indietro, anche a Genova mi ha fatto così, anche a Genova. Noi siamo usciti dalla rampa del porto, le rotonde sono andate prima di noi, questa rotonda a girare per salire la seconda rampa e portarti tutto nella zona dove c'era la fiera, e io non si ferma, ehi Rusona, tutto tutti i colori, e io guardi a Rubini, andavo buono in vato e tutto, a me non si massasse, no? Noi qua siamo a Gera, ma qua ci rompono il culo, mi ha io finisci, allora. Ma andiamo a ma a me non lo prendo, ma non prendo il sacco a te, che cazzo, mamma mia. Era un vero, nevrotico, era molto bububu, e dopo magari era bravo come animo, non era cattivo, però era un po' così, sì, è vero, era un po' burbero là. Ma già era tuo. Si faceva rispettare, quando guidava si faceva rispettare da chi si comportava, ha detto che non era sordo, lui diceva che tu vuole dare un drago. Sì, si faceva rispettare anche come persona, perché io ho sentito qualche battibecco poi con persone che io conosco e si faceva il collo al metallo, mettevi una mano, intanto si puntava e tutta la vole, era brava, e poi vedeva il ragazzino, allora, pure il ragazzino, e tu il ragazzino, dico, una mano, la teoria mi dice, era così, era così, era così. mi arrivo queste persone le tengo molto in considerazione, perché non mi va quando ci sono quelle persone che fanno la bella faccia al cattivo gioco. Se si gioca dobbiamo giocare faccia a faccia, non che tu giochi diversamente. E poi era anche lui qui, ma a parte era un grandissimo radonatore, un grande tecnico in tantissime cose, se non devo fare tutto. E quindi vabbè, purtroppo è così, non c'è più. Lo stiamo nominando perché è sempre il nostro cuore. Ma non è brava. E comunque, abbiamo combinato, c'era, guarda, già. Quella che con Andrea e Marco mi è rimasta impressa perché lì per poco non parte neanche l'aereo perché ci non abbiamo piazzato, ma anche con gli altri ci siamo divertiti. Se avete la possibilità, oddio, non è una grande cifra, passare un sabato perché poi si diventa la domenica, quindi non è che partiamo venerdì sera, venerdì sera da Porto Torres, alle 8:30, alle 8 mi pare partiva la nave, e poi arriva il sabato mattina, vai alla fiera tutto il giorno, alle 7:30 vai via dalla fiera per prendere la nave e te ne rientri. Tanto è tutto il giorno perché non esci dalla fiera, c'è il ristorante dentro, mangi lì, stai lì, continui a vedere, a prendere appunti, e se c'è soldi a comprare, se non c'è soldi ti buon pareggio di biele, mettiamo fatto con Andrea. Sì, ma devi andare con un garoncino, ma secondo la roba devi comprare. E via. Belle cose. Comunque l'ho trovato il reattore, dov'è? Nell'oculo dov'è? Per caso l'ho visto, stavamo dalla nonna di Liliana e ho visto due signori che stavano guardando. Mi sono fermato e ho visto attore. Era affacciato in un terrazzino del circolo, forse era. E stavano dicendo a questi signori, ma non conosci qualche amico o parente? Io ho detto no, sono un amico. Mi ha detto, cavolo, non lo sapevo nemmeno che era morto, un grande amico, cavolo, boh, non sapevo che era morto, te l'immagini. L'ho visto per caso così, infatti ha toccato a dove l'hai morto. Purtroppo è così. Una volta mi ha telefonato a casa, mi ha detto già scendi a casa che ti voglio far vedere una cosa. Vabbè, se non disturbo, no, vieni tranquillo. Sono andato e avevo ordinato da internet un po' di apparecchi, ne aveva uno particolare, che aveva un microfono col tasto rosso. Bello, un bel apparecchio, che aveva tutto, bande laterali, ma grande, bello. Però nel momento la verità non c'avevo argent. E mi ha detto guarda, lo sto vendendo, l'ho acquistato in blocco, se ti può interessare, l'ho provato e tutto va benissimo. Ho detto guarda, ti faccio sapere perché adesso non c'ho soldi. Se vedi che non ti do risposta te lo vedi, non c'è problema. Ho detto comunque sei libero di venderlo, io adesso vendo, se riesco a procurare i soldi mi piace come apparecchio. E poi l'aveva venduto a polverone. Io un suo strumento, la signora del 200, e l'OKF, l'OKF, l'HF, non uso neanche, non lo trago neanche nella radio, messo lì, non c'è quello, perché l'hanno apprezzato, poi mi hanno dato Io ho avuto un apparecchio così grande comprato dalla GBC, faceva rosmetro, wattmetro e modulometro. Praticamente quando modulavi se distorcevi andava sul rosso eccetera eccetera. Però l'ho comprato il primo, cioè voleva si già tutto gatto per circa dall'ufficio, ho detto ma cantare via, a parte che il filo chiuso così con l'elastico non l'avevo mai visto, di solito mettono quell'affare che si gira e che se la sarà dopo l'elastico, tutto appiccicoso su sull'elastico. Ma l'ha attaccato e non funzionava niente. Te lo porto, me lo cambia, me ne prendo un altro, ma te si goza, non funzionava manco questo. Alla fine del tasco fa una cosa, dice ma io ce li ho da tanto, però non sono rovinati, non li ho mai toccati e cose. Può darsi che si siano rovinati stando fermi. Fatto sta che alla fine mi sono fatto dare un baracchino, ho detto quanto costa questo? 120 euro, e dammi quello lì, anzi costava 130, io devo pagare 120, ho detto che gioco 10, e vabbè vai tranquillo, non c'è problema, ho preso un baracchino e me ne sono andato. Per quanto capire, nel 2000 è più grande, ma molto più grande del 231, ma molto. Allora ti posso dire che è grande quanto un 140, alto due volte di un 140, ok? Solo lo strumento a tre scale, è grande quanto è lo strumento che c'è tu della ZG, quanto tiene 1000, solo lo strumento che c'è lì nel quadro, ok? È grande quanto è uno strumento della ZG, solo il Beveridge, come lo vuoi chiamare, lo strumento, è grande quanto tutto uno strumento coperto alla cassa, una genesia che la chiamano illuminato, tutto illuminato. Allora, Riccardo Tiziano. E lo conoscete Riccardo Tiziano? Veniva sempre a fare la spesa da noi, ci aveva un Midland nella regatta, ci aveva. Non la tempra, boh. E vabbè, comunque, c'aveva un Midland sempre coperto con uno straccio, me lo ricordo ancora. Figurati che io con Carlo andavamo a arbitrare quando c'aveva la Simica bianca, e poi si aveva comprato l'850. C'avevo 16 anni, andavo con Carlo, io e Antonio Manuta, che era nipote. Andavamo a fare compagnia arbitrare. Quindi, un primo baracchino gliel'ho piazzato io, gliel'ho comprato io, doveva toccare 5.008, io abitavo in via Sassari. Una vita, come Giacomo Alessandro, l'ho visti rinascere, piccolini, anche lui si era non cercata, ma si è trascurato moltissimo, perché l'ultima volta che è partito c'ero io, c'era Giacomo, gli ha detto papà non partire, non stai bene, è inutile che stai fuori, cosa te ne frega, rimani qua, qualcosa la fai anche qua, no, se ne andò da Porto Marghera, e da Porto Marghera era giunto quello che muore, no, quando doveva va. Sì, è detto tranquillato, so io l'ho sentito quando è ritornato, non più non controllavi questo 140, stavo facendo un bel male di 140 che c'aveva, poi 440 c'aveva, vabbè, comunque ha acceso l'apparecchio, stavo cercando da strappi, cose, devi farlo scaldare un po' perché probabilmente come ti sei assentato e lasciato fermo. E l'aveva fatto un po' scaldare, poi il giorno dopo andava già meglio, e poi piano piano si è ripreso. E non abbiamo fatto alcune prove, cose, ci ho parlato parecchie volte. Anche quello l'ho comprato io stesso. Mi ce lo vedevo, lui era innamorato di questa cosa, ha detto vabbè, non c'è una cosa, ce lo troviamo. Comprato io. faccia la radio, peccato. Vai. Non funziona Antonello, non è quella che Antonello ha mandato a riparare. No, l'avevo messa praticamente, aveva sintonizzata di nuovo perché era un po' fuori frequenza, ma qui era a posto. Adesso dice che si è nuovo rotta. Chi l'ha detto? Poi l'ho detto l'altro giorno, ma intendo, sto uscendo pure la 44, dato che l'ha mandata al dottore, non è quella lì. No, no, no. No, Claudio. Tu, non ho capito, ma io pensavo che era in Galaxy, tu l'hai detto, l'hai mandata di nuovo a quella persona là. Tutto un giro con l'apparecchio, dai, ha fatto un giro, tra l'altro se l'ha venduto e se l'ha girato un bel. Ma se l'ha venduto? Non ce l'ha più? No. Io non so più, sento, lui mi diceva, l'ho mandato dal medico perché aveva un problema, pensavo era quello lì che ce l'avesse ancora. Ho capito. No, beh, io non l'ho mai cercato il Galaxy, se lo cerco lo trovo, ma come dico io, non lo tengo, non voglio bene più tre volte di me. Anche se mi viene a balle, non lo con me perché non me la vedo, mi piace a lei. Solo non so come metterlo, non so più dove metterlo. Avevo ragione, giù dove la piccola la scrivania, per tutto quello che avevo. Infatti mi devo fare un altro pezzo, no? Se non esco più qua, non so, o cambio, sollevo, vogliamo fare qualche progettino, mi sollevare un po', ma così mi piace troppo, sono tutte erbe, molto meno appunto, bello. Se capita comunque se lo trovo un mondo di Galaxy, che è un po' di Galaxy, serve la luce. Io ce l'ho questo qua, dovrei finire proprio sottoterra, perfetto, perché è un apparecchio che a me piace. E poi devo dire una cosa, è un ricordo, quindi non lo do. Questo è un ricordo, allora niente. Come lo dico io che hai comparato? Come lo dico io che hai comparato? No, però poi, diciamo che era un vivo che me l'ha venduto, però era già morto la persona. Ho capito. No, non so di chi era quella. Galaxy è morto, non so. Perché il tuo, il primo l'avevi dato a cosa, no? Come si chiama? Manolo. No, non era proprio il primo, quello lì che l'ho detto a Manolo era il secondo, il primo l'avevo acquistato da un rappresentante che abitava, che noi non sapevamo nemmeno che esistesse, eppure c'era, a Piandanna, un rappresentante che c'aveva un villone da Dio. L'aveva comprato, c'era tutta la stazione, c'aveva l'antenna e se lo stava vendendo perché si doveva acquistare un altro apparecchio. L'avevo provato, ho provato la macchina, siamo andati con un altro amico, adesso non mi ricordo chi era stato in macchina, abbiamo provato tutto, andava bene, l'abbiamo comprato. E uno mi voleva vendere anche un microfono, ma non l'ho voluto perché usciva a tratti, probabilmente aveva qualche cazzata, però io non l'ho voluto. E niente, c'era l'antenna nuova, tutto quanto, noi non sapevamo manco l'esistenza, lui ascoltava e entrava poco, ha detto, però ascoltava molto. E niente, l'avevo preso lì, poi secondo l'avevo preso da internet, che era quello che va quella scheda particolare di 40 metri, che io subito me la volevo far togliere, l'ho portato a Massimiliano, e vabbè, c'aveva un bel di problemi con l'apparato e abbiamo cambiato la bobina, tutto quanto, ma non siamo riusciti a metterla a posto. E quindi l'avevo data a Manolo, quello lì. Sì, ma io non te ne avevo fatto comprare uno nuovo, quello lì c'è. No, no, non ce l'ho più quello lì. Quello lì l'avevo dato a Tornado. Quanto è venuto anche quello? Quello era nuovo però. Sì, sì, quello era perfetto. Perfetto anche perché Vittorio l'avevo aperto quando mi è partito il modulatore, mi ha detto che non era mai stato toccato. Proprio nuovo, nuovo, nuovo, nuovo. Come dice che ce l'aveva il telefonatore di Urbia? Era nuovo, nuovo. Quando io l'ho visto, ho messo una cosa che era nuovo, era un po' sporco, infatti l'avevo tutto pulito, lucidato. Era nuovissimo, era nuovissimo. E quindi te ne hai comprato un altro, quattro. Gli ho avuto, buono, non ho già messo un conto. Però questo qui è fermo, là. Questo che c'ho adesso, ce l'ho già da un po', ma questo qua. Non ce l'ho da poco. Ce l'ho, mi ce l'avrò quasi un anno. Ah, non ho capito. No, io la verità non l'ho mai cercato, no. Non ho avuto di due occasioni, mi sono passati così visti. Stavo guardando la televisione, invece l'altra serie, non è Galaxy, niente, non c'è 100 watt. Il Galaxy Turbo? Ah, quello lì è sempre Galaxy, ma non ha anche un nome, Saturno. Quello lì è il Galaxy Saturn, però è il Turbo, si chiama Galaxy Turbo. E quello c'ha 100 watt, c'è tutti i tasti davanti per le memorie, eccetera, eccetera, è molto bello. Poi c'è il Colt Excalibur, che è la versione dorata. No, no, no, quello lì, Colt Excalibur, quello lì, non c'ha per un Excalibur, quello lì, che è grigio, dorata, sì, o dorata, grigio, blu, argentato, non so, quello mi piace, quello è molto bello. Però non c'è il frequenzimetro quello. Quello fa la Lafayette che si chiama Petrus ed è sempre senza, senza il frequenzimetro. No, non me ne sono accorto, non l'ho visto, no, non si è dato niente tra le luci. Allora adesso mi metto la ricerca di questo Galaxy Turbo, così si chiama Saturn Turbo. Galaxy Turbo. Vabbè, da lì, sotto. Questo Galaxy Turbo. €250 non era ancora finita l'asta. Il Galaxy Turbo costava una barca di soldi, è l'ultimo che è uscito della Galaxy. E costava una barca di soldi, mi chiedo, non è, non costa poco. Non era niente, si trovo dicendo, era €250, mancava ancora due giorni. Poi niente, ma lo stavo guardando, tutto ciò che stavo guardando, ma che ho l'intenzione di comprare. Però gira le telegira, si può anche prendere. No, vabbè, c'è due luci. Adesso vediamo. Non so, non lo so. Ma vabbè, come non ci sono. Ma tutte le stazioni di base, quello che preferisco è il Galaxy. Il Galaxy. Per me, anche se è un apparecchio di vecchia era, è completo, ha tutto. C'era tutto per la vecchia era e per questa qua pure. Ma sì, non è che era, non è che quando c'è le bande A, B, C, D, E, F, è più che sufficiente una radio bassa. Questo back non c'è niente lì. Quello che gli faccio, 40 canali e boh, non è una zona che non viene in realtà, molto bello esteticamente, molto, molto interessante, c'ha tutte le funzioni, tutte illuminate, qualsiasi cosa, sposti si illumina, c'ha tutta una parte con gli strumenti, molto bello, ma sempre in 40 canali e non è che ciamba assai. Ma c'è qualcuno che se l'ha modificato, se l'ha fatta a 400, mi pare, qualcosa del genere. Ho letto dei forum dove c'è intelligente che se l'ha modificato e va molto bene con l'apparecchio. Io ho sentito Walter con quel Siderick, mi sembrava che fosse con l'apparecchio radioamatoriale. Quando sono entrato dentro ho visto parlare con quello, ma con quello stai parlando? Ma sembrava un apparecchio radioamatoriale, una voce così calda, bella, corposa, bella calda, frutta. Sai quanto volte te l'ho fatto sentire io? Non sono voce per sentire che ho cambiato, ma tanto sembrato. C'è voce più dura, uso più dura, ma è molto bella anche la modulazione di quello. C'è una bellissima ricezione, c'è altri strumenti, ti indica qualsiasi cosa, poi c'è lo smetto incorporato che tutto sembra uno strumento esterno, diventa in mano, già l'ho visto che non fa. Ma credo anche questo, ma l'ho detto la mia, perché c'è il pomellone grande dello squelci che entra e esce, capito? Se tu lo tiri fuori e sparisce sparisce e cambia. Per esempio se ti ascolta adesso 10, tira il pomellone fuori dello squelci e poi non ti sento più, mi sento correre, quindi sicuramente la sicurezza modifica, non si ricorda da me, non so. La sequela lì non ho fatto solo squelci, che non è solo il pomello, non si vede niente, è tutto originale, quindi sono tutto originale, non ho cambiato niente. Però dove si hanno messo il potenziometro di quindi gruppi, anche a tirare esternamente. E quando tu tiri fuori il pomello allo squelci, deve essere che va in altre frequenze. Non mi sono mai messo a vedere dove va, in batteria attacco il. HF lo seguo con frequentimetro, mi segno tutte le frequenze, ma sicuramente è quello, sicuramente c'è già la modifica di comunque quello là 50 watt, quello c'è la potenza regolabile, 50 watt da 0 a 50 watt, ma la laterale va anche di più di 50, va molto bene, è un barasone che ha trovato in televisione. Ma quello lì di chi è, di Daniele o il tuo? Ma quello è mio adesso. No, te l'avevo. No, pensavo che li avessi perso per sistemarglielo, le lampadine, quella roba lì. No. Inizialmente sì, ma poi ci siamo accordati. Mi ha mollato. Ma bello, quando lo accendo è molto bello come. C'è una bella ricezione, c'è due colonnine, una un lato e un'altra, capito? C'è due autoparlanti interni, uno su un lato, su un fianco e uno sull'altro. Gli americani sono pazzi facendo gli apparecchi, sono pazzi. Senti un acciaio davanti, c'è le barrette d'acciaio, una linea acciaio, tutto cromato, tutto frontale alluminio di quello bello lucido. I pomiglioni sono tutti lo stesso in alluminio, cromati, anche possiamo fare una linea così di strumenti, cioè questi strumenti tutti separati che si trova qui dentro, allucinante come ho fatto, capito? E tu c'è la nostra fino alla valvola, quindi è una bella storia, una roba fatta da niente, non so più, ma anche quello che ho comprato da Mario è molto bello, il console primo. Se vado a ritirarmi il sommer tanto oggi è un mattino di settimana che devo andare, se non ho fatto tutti i minuti, ma già più di 12 guardati, devo mettere qualche cosa, perché l'altro giorno meno male mi ha aiutato lì, insomma, ne cadeva tutto. Sotto c'erano i microfoni, se mi cadeva li avrei rovinati. Il garage proprio stava cadendo, cazzo, quello più pesante. E meno male ce l'ho fatta a rinfilare, ho meditato l'Iliana, ce l'ho fatta a rinfilarglielo sopra. È stata colpa mia comunque, perché gli ho dato un colpo col ginocchio senza accorgermi, l'ho fatta andare in avanti, e quindi è sceso. Vabbè, ma per evitare queste cose non si può mettere un fermo o qualcosa che non fa camminare il carrello? Qualcosa bisogna mettere perché è sempre pericoloso. Sì, ci sono quelli che hanno le viti sotto, che si avvitano, non si muovono più, però non si possono manco spostare di buco, quello lì si può spostare, si può mettere più in basso, più in alto, c'ha tutte così a buchi, si infila questa brugola, si avvita e si appoggia il pannello sopra, capito? La settimana scorsa invece è andato fuori La marca me la ricordo. Come ci ho conosciuto, ma non mi ricordo che marca è. Se deve essere la SBE, come questo qua, come questo del primo, non mi ricordo che caso lo faceva, ma è bello, è merda, Simba, benissimo, quindi baracchino Simba. No, Simba 50-26, così. Una crisi così, non subito, ma la mattina un'ansia, non te lo dico. dico nulla. Niente, ma non ho paura che ci sono i medici che cosa ti preoccupa. Poi quei casi lì lo sono preparati appunto, non è che si spaventano perché uno vomita o se la fa addosso. Se chiama l'ambulanza perché uno fa male. Poi con il latte, figurati, quella sicuramente non ha congestione, perciò c'è il latte in sé, io mi cago subito, capito? Quindi immaginati una congestione, cosa può succedere? Cosa dici tu, infermiere? Già mi ho perduto. Che una congestione ti può fare rimanere anche, secondo come. Anzi, è andata bene che non è, ha avuto una reazione, diciamo, non istantanea, perché solitamente quando ti viene istantanea la reazione, perdi anche il respiro e ci può rimanere veramente. A me, in prima persona, è successo. Allora, al lavoro mi avevo messo una Coca-Cola, là c'è la frigorifera, dove teniamo i latticini, roba così. Però noi teniamo un bidone dove scarica la condensa del frigorifero, no, quando sbrida, e si forma il ghiaccio, e lo mettevamo a bagno lì per rinfrescare subito. Cosa è successo? Che l'ho messo a rinfrescare, poi tutto sudato, sono andato a berla, Claudio mio mi ha crepato, facevo non riuscivo più a respirare. Questo mio collega si è messo a ridere, pensava che lo stessi facendo apposta. Si è spisciato dalle risate, poi quando mi ha visto cadere in terra, allora se ne è reso conto che non stavo bene. Allora si è assustato davvero. E mi hanno chiamato anche l'ambulanza, è successo un milione di anni fa, ma me lo ricorderò sempre. Su, quello che ha preso per me allora, sulla alberghiera. Eravamo io, andiamo a ricordare, c'era altri 4-5 circuiti, tutti quanti, però bevuto, io mi ripeto, ho pizzata a casa, dicevo, no, fame. E c'era, come si chiama, quello di Placamona, che non mi ricordo adesso il mio tipo. E veniva tutti i giorni in moto, veniva, per questa ragazza. E tu fai con quello che ti accompagno io, conto che tanto invece mi accompagna due donne. Io sono uscito una volta con lo scooter, con quello che avevo il bagnetto. Sono uscito da lì, ho fatto 50 metri, sono caduto in mezzo all'erba, come un salame. Sì, merito. No, come si chiama? No, forse Luca, non mi ricordo. Quello di Pazzavola, che modulava da Pazzavola, te lo dico, dove chiamava sempre Falcone, cazzo. Mi ricordo essere attivo. Mascherato. No. Quello arrivava a Platamona, c'era quando abitava Camino Torrellago, veniva a Platamona e Giovanni Modigliani. No, quello, non Giovanni Modigliani, era cosa? Franco, non mi viene in mente il nome, ce lo sono appunto la lingua, vero? Guarda, se mi viene in mente uno, te lo dico. Davino si chiama, no, mi sembra si chiamava Davino, sono di battesimo, mi sembra, no Gabino, mi viene in mente il nome adesso, la verità. Ciao Franco. No, Gabino era a San Giovanni, quando parlava, se lo dico di, quando parlava sempre un palcone. Non ce la trovo, hai visto il numero di ragazzi ai tuoi San Giovanni? No, molto dopo, con San Giovanni gli estendiamo, lo ricordo anch'io. L'ho visto un mese fa, quello fa con il mio nome adesso. Nino era morto nel frattempo, lo sapevi tu? Chi? Nino di San Giovanni. Fratto Vittorio? Sì. Sì, quello che so, siamo visti da poco a Conforama Lontoro, ci vediamo spesso, è stata una palla. Lo sapete che Marco ci ha detto un punto di fatto, sì? Chi? Marco. 131. No, non lo sapevo niente. Ho provato a un fermo rifornitore di qua, per entrare la porta di giornale, non si è rimattito, quello rifornitore. Mi ha cacciato dentro il furgone, ma si è fermato. Portugallo, oi oi. Solo, sigaretta in bocca, la vedi, dai minuti, a caffè, sigaretta, caffè, sigaretta. Sì, ma ti porta quel tipo di lavoro, sembra che ti faccia compagnia la sigaretta. Io quando andavo fuori fumavo, dico la verità. Me ne davano pochi viaggi fuori, però quando me ne davano a Cagliari, andare alla costa a prendere frigoriferi, questo, quell'altro, cazzo, poco fumavo viaggiando, sembrava che mi facessero compagnia le sigarette. È un casino, le sigarette non andavano, mi sto cercando piano piano, sono già al pacchetto da 10, ce n'è il pacchetto da 10, ce n'è ancora 2-8. Va benissimo, una grande, se no la quello da 20 per ammazzarmi, e quindi ho deciso così, piano piano, piano piano, già molliamo, ma capisci, la vista brutta, quanto abbiamo detto, abbiamo un varo di attuale, c'è proprio l'impianto sotto, vicino alle fornitore. Thank you. sei pure un processo su chi gioca, sono quelle che sono avanzate nell'armadio, quelle che avete comprato voi, ma ce l'hanno sequestrato parecchi in radio, due delle ambulanze, una della centrale. Quelle che avete comprato voi sono quelle che sono nell'armadio, non hanno visto. Non c'era nulla, non aperto, c'era piace molto ce ne siamo andati. È andata bene, probabilmente non ho trovato posti di blocco. E l'altra notte sotto casa io non l'ho sentito, ma mi ha detto Aldo quello di fronte che sentiva pum pum pum pum, ha fatto la seconda che ha visto che si avvia ammada una macchina BMW che ha la superficie del fuoco, cazzo, non c'è più nulla da fare, un BMW Station Wagon non bruciato, non bruciato proprio, non ha preso fuoco. Sì, beh, solo non prende fuoco la parcheggiata, claro. Però lì è qualche cosa, qualche rispetto che gli hanno fatto, boh. A Piadu Vug era infuocata, poi come sia successo non lo so, però ha esploso il serbatoio, a un certo punto quando stava qua si è detto BOOM, cazzo, mi ha fiammata, ha detto una cosa allucinante. Ciao, ciao.